my home. Job 24. Le donne che cercano lavoro o lo vogliono cambiare ci seguono perché oggi ci concentriamo sulle figure rosa anticrisi più richieste dalle aziende. L'Agenzia per il Lavoro Page Personnel ha infatti stilato un elenco delle professioni che tengono il mercato, nelle quali le donne sono vincenti e quindi particolarmente ricercate. Una di queste è l'impiegata commerciale. Ce ne parla Pamela Bonavita, direttore Page Personnel. L'impiegata commerciale è una figura che viene inserita nell'ambito dell'amministrazione vendite. Le sue mansioni spaziano da quello che può essere relazione con la clientela internazionale, la supervisione delle fasi di pre e post vendita, verifica degli stock di magazzino, gestioni con l'area finance piuttosto che l'area pricing. Sono richieste le competenze linguistiche, competenze informatiche e, per quanto riguarda il ruolo, visto che citiamo il ruolo delle donne, sicuramente si dimostrano più efficienti per la propensione all'operatività e alla precisione. Quindi le aziende di norma preferiscono donne per questa posizione? Assolutamente sì. Questo per quanto riguarda l'impiegata commerciale. Un'altra figura che è particolarmente richiesta dalle aziende, come ci avete comunicato, è quella della Legal Assistant. La Legal Assistant è un ruolo che sta crescendo nel mercato italiano sia all'interno delle aziende sia all'interno degli studi legali internazionali. Hanno un ruolo duttile in quanto si interfacciano sicuramente con il responsabile del dipartimento o il partner dello studio legale, organizzano incontri e riunioni, programmano la redazione degli atti, si occupano di traduzione del materiale giuridico e di tutto quello che è il materiale inerente all'azienda. Non è richiesta la laurea in giurisprudenza, anzi molte volte può essere un deterrente la laurea in giurisprudenza per entrare come legal assistant. Quello che ricerchiamo sono background a livello umanistico o linguistico. Le laureate in lettere, in storia, materie umanistiche o in lingue sono avvisate. Adesso invece passiamo dalle materie umanistiche ai numeri e parliamo dei contabili, anzi in questo caso della contabile. Aggiungerei contabilità generale e credit collector. Sono figure in questo momento particolare di mercato entrambe richieste a gran voce da tutte le aziende. La parte di contabilità gestisce i rapporti tra clienti, fornitori, contabilità generale e l'aspetto fiscale dell'azienda. La parte del credito in questo momento qui si interfaccia con tutti i clienti dell'azienda al fine di gestire i pagamenti rispettando le tempistiche previste. E in questo caso quali competenze bisogna dimostrare di avere? Un diploma tecnico come può essere l'istituto di ragioneria è assolutamente ricercato, altrimenti facoltà individuate, economia e commercio, statistica, matematica. Va bene, poi so che ci sono altri profili ricercati per quanto riguarda le donne nel mondo del lavoro. Sì, abbiamo tanti altri profili ricercati che vanno dall'area sales and marketing, ad esempio l'assistente al brand manager, l'area retail, assistente alla rete vendita, le figure di segreteria in generale. Insomma, le donne all'ascolto sono avvertite. Il sito da segnare oggi è www.pagepersonnel.it. È tutto, ricordo domani Job 24, le pagine dedicate al lavoro del Sole 24 Ore. Noi ci sentiamo alla radio, un saluto da Roberta Pellegatta. I hope, I hope, I hope.